dove si trova. Il cane mamma mua. Anche con Irina, tranquilla, all'inizio si voleva sparare sul gioco, si voleva ancora. Блин, австрийка.